Quando viene l'amore, fatti trovare preparato. Non dire sciocchezze, parole sbagliate. Non balbettare davanti all'amore, se è lui che ti viene a cercare. E quando ti trova, fatti vedere ben vestito. L'apparenza è sostanza, niente cravatte sbagliate. Agli occhi delle donne i colori hanno molta importanza. Quando arriva l'amore, non gli dire chi sei davvero. Lascia stare gli amici, il calcio, la politica, che noia. Le donne vogliono esagerare. Dille piuttosto che la porti a volare sopra un ultra leggero, che la porti in crociera da Miami a Torino. Se lei arriva davvero, stai pronto che avrai nuovi voli da fare, strade da correre, speranze da crescere e giorni da aspettare. Allora via così, che questa notte è un incanto, questa canzone è un momento, e sto parlando con te. Via leggeri così. Tieni alto lo sguardo e la vedi arrivare. Dille la verità, ha la bontà di capire, di perdonare i tuoi sbagli se viene, ma non tutti insieme. Quando arriva l'amore, non gli dire chi sei davvero. Lascia perdere gli anni dei ricordi passati. Le donne vogliono esagerare, sognano posti di cui non hanno mai sentito parlare. Il cuore della Cina e portala in Vespa da Milano a Pechino. È così che si fa, al ritorno ne avrai di cose nuove da dire. Strade da correre, figli da crescere e giorni da capire. Allora via così.